Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Devo dire che è raro accorgersi che il passeggero di fronte a me ha un cestino pieno di erbe. Ma non è un erborista. Sono erbette antiche. Alcune ne conosco, ne riconosco l'odore, ne riconosco il colore, la forma. Sono quelle erbe selvatiche che quando ero piccolo ci insegnavano a raccogliere. Erano anche buone da mangiare, anche se qualcuno storceva la bocca e preferiva l'insalata che si comprava al mercato. E capisco che quest'uomo è un antico cercatore di erbe selvatiche e se le porta fiero in treno come se fossero i suoi trofei e sicuramente ha una vita da raccontare. Adesso io raccolgo erbe e le vendo ai ristoranti, erbe selvatiche, quindi mi occupo di fittoalimurgia. Ma questa competenza come l'ha acquisita? Cioè, chi ha insegnato? Era un hobby con gli amici, andare a cercare qui in campagna. Noi abito qui nella zona del Chianti tra Firenze e Siena e c'era un po' la tradizione, gli asparagi selvatici, i raperonzoli, i terracrepoli, insomma il radicchio, queste cose qui. Però era rimasto un hobby, insomma. Quindi sono, diciamo, erbe commestibili antiche che non si usano più normalmente. Beh, diciamo che sì, è una tradizione questa qui della fittoalimurgia che è scomparsa. Adesso si sta un pochino rivitalizzando perché la gente è sempre più interessata a questi prodotti della biodiversità, della natura, mangiare sano, queste cose. Per Ma cos'erano quelle erbette che una volta prendevano le signore anziane, sì, le contadine? Sì, esatto, le mettevano nel loro grembiule, tornavano a casa, le separavano, le selezionavano e poi le mangiavano. Era la fittoalimurgia. Ma quella che vendono come misticanza qualche volta, sì, agli ortolani? Esatto, la misticanza. Io sono un esperto di misticanza, ho scritto anche in fondo al libro che ho scritto un piccolo trattato sulla misticanza. Ma le erbe si trovano comunque ancora, cioè non è che sono estinte, basta saperle trovare. Assolutamente, anzi si trovano, io lavoro dal 1 gennaio al 31 dicembre, quindi si trovano tutto l'anno. In qualsiasi campagna si trovano? Beh, ora io mi riferisco al territorio dove abito, che frequento, che conosco, poi ci saranno delle varianti a livello regionale, magari al sud, per esempio le isole, la Sicilia e la Sardegna sono geomorfologicamente diverse dal resto della penisola, per cui lì ci sono alcune erbe che qui non ci sono e viceversa. Comunque può essere un lavoro, cioè un lavoro. Sì, è nato così, è diventato un lavoro quando nel 2013, quando io avevo prima ho lavorato per 32 anni nel turismo, ero senza lavoro e mi è capitato così per caso di leggere una recensione di un ristorante qui vicino che metteva nel menù, aveva preso una stella Michelin e nel menù c'era scritto: facciamo il risotto con le erbe di campo, con le erbe selvatiche. Allora... E lei si è inventato un mestiere? Eh sì, perché mi si è accesa la lampadina, sono andato a parlare dallo chef e gli ho chiesto, ma chi è che ve le porta? Dice, è un signore anziano che ogni tanto viene. E allora mi è venuto così, l'ho buttata lì, ho detto, guarda, io se vuoi me ne intendo un po' di erbe. Quindi già un po' ci capiva però di queste erbette. Sì, sì, certo, sì, sì, perché era una passione che avevo coltivato negli anni, quindi era un pochino, però ne conoscevo 15, adesso ne conosco 130, per cui... Quindi per cominciare a conoscerle bisogna comprare il suo libro, non c'è un trattato. Non è indispensabile. No, ma per dire, esistono dei trattati, se io volessi oggi, sì. Perché mi è venuta la curiosità, andarmi a raccogliere le erbette. Io la cicoria mi ricordo. Quella sì, la so la cicoria, infatti, gli asparagi sì, li sapevo trovare. Gli asparagi selvatici, lei che ha vissuto anche lei in campagna, quindi ma perché una volta, guardi, quando ero piccolo io gli asparagi erano solo quelli, non esistevano gli asparagi, quelli grossi che si compravano. Erano quelli selvatici. C'era quell'erba che pizzicava, l'asparagina, uno andava lì sotto, sì, e li trovava. Sì, esatto, proprio così. Sì, sì, erano sì. Capaci le signore, le contadine, ci insegnavano questo ai bambini. Diciamo che l'asparago selvatico è l'erba che conoscono più tutti, vengono dalle calate, da Firenze, vengono nei boschi del Chianti a cercare gli asparagi. Però il resto non lo conosce più nessuno, la fitolemurgia... Era appunto, come dice la parola, era l'attività di alimentarsi con le erbe. E io ho letto che Giovanni Targioni Tozzetti, grande emerito botanico dell'orto botanico di Firenze, fu inviato dal Granduca nel 1750 a verificare nel resto della Toscana di cosa campasse la gente, perché c'era stata una grande siccità, una grande carestia e non sapevano cosa mangiare. Lui si è accorto che aveva fatto proprio tutta una relazione al Granduca e si era accorto che la gente campava mangiando le erbe selvatiche. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart. And it breaks my heart. And it breaks my heart. When it breaks my heart. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà fra poco. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Beh, una volta quando c'era grande povertà, quello c'era. Certo, esatto. Che alla fine è una grande risorsa, se lei pensa, lei raccoglie qualcosa che non deve coltivare. No, esatto. Che nessuno reclama, poi nessuno dice il mio non me la prendere, perché alla fine no, esatto, è vero, a parte che le erbe sono antropofile, quindi vivono vicino all'uomo, quindi a volte io conosco più o meno le persone da cui vado, nei cui orti, nei cui vicinanze delle loro case vado a cercarle, perché si sono evolute nel corso di centinaia di anni, quindi fuori di una casa di campagna ci sono solo certe particolari erbe che sono quelle utili che si mangiano, insomma. Ma quali sono quelle più diffuse, quelle che piacciono di più? L'asparagio me lo ricordo, anche perché, ripeto, io gli asparagi, quelli coltivati, quelli grossi, l'ho visti quando ero già adulto, da piccolo non li vendevano, non esistevano, almeno in Umbria non c'era. È vero. L'asparagio era solo quello si andava a cogliere nei campi. Sì, esatto, perché poi l'asparago coltivato è venuto dopo. Sì, ci sono il tarassaco, per esempio c'è la cicoria. La cicoria sì, la so prendere anch'io, quella la vedo, quella la riconosco. Le cicoriette, c'è un bellissimo film in cui si vede queste donne che scendono da un autobus e vanno nel campo e vanno a cercare le cicoriette, però ecco, poi ce ne sono tante altre, c'è la cicerbita che Naturalmente i nomi sono quelli che si usano qui in Toscana, poi si cioè, va. Cioè, i nomi scientifici sono impronunciabili, sì, probabilmente. I nomi scientifici però sono gli unici che sono la chiave di lettura di qualsiasi erba, per cui io posso comunicare di erbe con un australiano, con un giapponese, con un americano dicendo un nome scientifico. Ah, quando eravamo piccoli noi mangiavamo anche il finocchio selvatico, ci piaceva. Finocchio selvatico, sì, è una delle tante erbe aromatiche, ci sono anche ora. Oggi ho raccolto l'achillea, l'artemisia, il finocchio selvatico, l'elicriso, ce ne sono tantissime che vengono utilizzate per vari scopi, ecco, anche nella liguristica. Questa cosa ha cominciato a farla da qualche anno, sì. Totalmente imprevedibile, perché nella vita mai avrebbe pensato. No, assolutamente. Un domani mi trovo io senza lavoro, mi devo ricordare che da piccolo faccio queste cose, certo. E diventa un lavoro, mi sembra una grande idea. È vero, è diventato un lavoro, ma poi l'anno scorso avevo 7 ristoranti. Quest'anno ce n'ho uno solo perché via del Covid molti ristoranti purtroppo o sono chiusi o... Eh sì, perché una volta che poi ci hanno fatto la bocca i clienti le rivogliono, perché sono dei sapori assurdi, ma non si sentono più questi sapori. Cioè l'insalata con la misticanza è tutta un'altra cosa rispetto anche alla migliore dell'insalata. Un ristorante importante, famoso, ha chiamato nel menù Franco Salada in mio onore, perché appunto usa le mie erbette per fare una misticanza. Ecco, allora facciamo il passo indietro. Sì. Come è finito il lavoro che faceva prima, per cui si è trovato costretto a mettersi a raccogliere le erbette? Perché è un salto importante, lei è andata bene, ma sì, se ci pensa bene, io penso trovarmi davanti arrivato al fatto che non lavoro più, dico che mi invento, certo. Questo certo, è un momento è brutto, no? Io sono originario della provincia di Milano. Sono venuto in Toscana perché mi sono innamorato della Toscana, con la T minuscola, non con la T maiuscola. Per cui sono arrivato qui, ho cominciato a lavorare, erano gli anni 70, per cui non era difficile trovare un lavoro nel turismo. A quell'epoca bastava guardare gli annunci sui giornali e io ho trovato un posto come portiere di notte. E ho cominciato in un albergo? In un albergo, sì, di Firenze, nel centro storico di Firenze. Anche lì non aveva esperienza di questo lavoro, è cominciato così? No, è cominciato così, però io siccome studiavo lingue all'università, alla statale a Milano, allora ero un po' avvantaggiato, nel senso che... Ah, beh, comunque, vedi, all'inizio lei aveva avuto un impegno sul futuro ben diverso, studiava certo, lingua alla statale. Certo. Quindi, poi sono diventato, dopo qualche anno, ho fatto un po' di carriera negli alberghi, sono passato a lavorare di giorno come segretario, da portiere a segretario, poi alla fine ho avuto l'occasione di diventare imprenditore. Cominciamo dal portiere di notte, mi interessa. Sì. La vita del portiere di notte com'era? Lei immagino, giovane studente, primo lavoro, si trova a fare il portiere di notte, aveva tutta la giornata libera magari, ma quelle notti come le passava? Non è affatto. No? Non è affatto così, prima di tutto perché io avevo fatto portiere di notte perché ho detto è tranquillo, così mi metto a studiare di notte, sì, per fare i miei esami. Ah, voleva studiare. Invece tutt'altro, era tutto, meno nell'albergo dove ero io c'erano gruppi scolastici, c'era un via vai di gente perché era vicino alla stazione, per cui questa cosa di poter studiare è saltata. Era un equivoco albergo, sì, probabilmente? Sì. No, equivoco proprio. Non cioè, stanze a ore, giri loschi, cose così? No. Può darsi, tanto mica dice il nome. No, certo, no, c'era un albergo vicino alla stazione, per cui era un albergo che a quell'epoca era di seconda categoria, per cui, pardon, era di quarta categoria. Sarebbe vabbè, quelli da, da studenti in gita scolastica. Sì, erano le gite scolastiche, sì. Quindi assolutamente non riuscivo a fare niente. Ma riusciva al giorno poi a studiare, andare all'università? Se la notte stava... La mattina dormivo e poi niente, il pomeriggio cercavo di studiare, insomma. E quanti anni l'ha fatta questa vita? Ma dunque, come dipendente l'ho fatto... No, da portiere di notte proprio dico. Portiere di notte l'ho fatto per 2 anni. Poi sono passato a fare il turnante, che è chi sostituisce il portiere di giorno e di notte, per cui facevo... Un po' giorno e un po' notte. Due notti alla settimana e il resto facevo di giorno. E lì, tra l'altro, c'è un nesso fra quello che faccio oggi e portiere di notte, perché c'era un signor anziano, un vecchio barman, che si chiamava Trento, me lo ricordo bene, con cui avevo fatto amicizia. Lui, siccome c'era poco da fare, magari a una certa ora, lui mi spiegava come si facevano i cocktail. segreto del barman. Sì, mi spiegava tutti i trucchetti, come si miscelavano le varie bevande, no? E infatti la misticanza è una forma di cocktail. Erbe, certo, chiaro. Ci vogliono le erbe di base, ci vogliono le erbe che modificano la base, ci vogliono le aromatiche, ci vogliono le decorazioni, come un cocktail. Ma poi la messa a frutto nella vita, questa capacità di fare il barman, dico, a parte le erbe. No, mai. Questo lo faccio per gli amici, lo faccio per me ogni tanto. E poi come ha fatto a diventare imprenditore da portiere? Da portiere nel mio comune c'era un ostello per la gioventù, il vecchio gestore andava in pensione, il comune ha fatto una gara e l'ho vinta io, per cui sono diventato imprenditore, ho cominciato a gestire queste strutture per i giovani, ostelli per la gioventù, poi sono andato a finire in altre zone, a Siena, a San Gimignano, anche a Firenze, per cui ho fatto per tanti anni questa attività. Per quanti anni l'ha fatto l'imprenditore del turismo? 32 anni. 32. Una bella soddisfazione, sì. Ha fatto tutto da solo, ha cominciato da solo. Sì, cioè, in un certo senso sì, mi sono fatto una bella esperienza. Non ci sono stati mai momenti difficili, perché da come la racconta fa in mente che in Italia era un periodo in cui bastava averci voglia, tutto era possibile. Momenti difficili ce ne sono stati tanti, per esempio anche quando nella nostra zona c'era il famoso mostro di Firenze. È vero. Quindi c'è stato un momento. Sta dalle parti di Scandicci, quella zona lì. Sì, nel Chianti, quindi un po' più in là. Però. E lei gestiva alberghi in quel periodo, in quella zona? Sì, esatto. E cosa è successo? Perché poi nessuno si dice, non c'è memoria storica, non ci veniva più nessuno. No, ci mandavano, naturalmente, ci mandavano delle informazioni, dicevano di distribuire dei volantini per cui i ragazzi non dovevano dormire all'aperto, era meglio dormire all'albergo oppure nell'ostello per la gioventù, insomma c'erano tutti. Certo, a distanza di decenni nessuno si ricorda, ma è stata un'emergenza grossa il mostro, perché ogni tanto accadeva che ammazzava qualcuno, non si sapeva come, dove, quando. Sì, esatto, c'era una gran paura, mi ricordo, sì, quindi c'era molta attenzione a questo fatto del mostro di Firenze, poi la cosa è finita, e quindi però poi ci sono state anche tante altre crisi economiche, per cui io lavoravo molto con i gruppi stranieri, per esempio i tedeschi a un certo punto non sono venuti più perché avevano la crisi nel 96, mi sembra, quegli anni. Ce l'avevano loro quel periodo, certo, sì. Sì, c'erano i momenti di crisi economica, per cui si chiudeva il rubinetto dei finanziamenti alle scuole, alle gite, per cui non veniva più nessuno. Le gite era un bel business, diciamo. Sì, quello era un bel business perché era delle date programmate, uno poteva lavorare, io praticamente riempivo tutta la struttura, poi insomma era una bella cosa, però ecco, d'estate non c'erano le gite, allora io mi sono inventato di fare i corsi di lingua italiana per stranieri, però hanno avuto un discreto successo e d'estate riuscivo a lavorare, per cui è stato tutto un reagire a delle situazioni di difficoltà, anche perché poi gli ostelli per la gioventù non avevano dei prezzi molto alti, non avevano dei grossi margini. Felis, ma de xeri, santo Felis. Την καρδιά μου παιδεύει σαν ξένο βαρύ φυλαχτό. Μα εκεί ψηλά στον ουρανό τα αστέρια λάβουνε για μας τα δυο. Τον ερωτά μας τραγουδούν, τον αμετάλλο πως φεγκοβολούν. Χίλιες φορές με κάθε σου πρώτη ματιά φεύγεις, όλο φεύγεις, με πικραίνεις. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Aveva molti dipendenti? Beh, quando avevo al top, trovato, diciamo, della carriera. Al top erano negli anni 95, avevo 3 ostelli, avevo 15 dipendenti. Era un piccolo imprenditore, non era una cosa. Sì, non andava male, ecco, in quel periodo. Poi c'è stata tutta la crisi, poi siccome gli ostelli sono di proprietà, quelli che ho gestito io erano di proprietà pubblica, facevano le gare e a volte si vincevano, a volte si perdevano, per cui alla fine... Però c'era meno rischio di impresa da parte sua, tutto sommato, no? Perché gestiva degli spazi pubblici. Sì, gestivo degli spazi pubblici, però avevo tutti gli oneri della manutenzione, le discussioni con i vari comuni, insomma c'era un po' di burocrazia, insomma non era proprio così semplice. Comunque... Però questo per 30 anni ha permesso di vivere, penso, no? Sì, certo, saltando un po' in qua e là, tenendo il piede in diverse scarpe. Ma sempre da solo ha fatto tutto questo, aveva dei soci, degli amici, qualcuno? No, sono sempre stato una ditta individuale, poi avevo questi dipendenti regolarmente assunti che lavoravano per me. Ma poi che è accaduto che poi si è dato la misticanza? Perché poi sono rimasto con un ostello solo vicino a Firenze e questo ostello ho fatto una gara alla fine del contratto che c'era e la gara l'ho persa. La persi, quindi niente, sono rimasto senza niente. Ma può essere che uno lavora 30 anni in un settore... si allarga e poi si rimane senza niente da un giorno all'altro, com'è possibile? Sì, perché c'era un po' la crisi del turismo, tant'è vero che io la prima cosa che ho fatto è stato di cercare nel turismo, no? Era l'occupazione che avevo da 30 anni, quindi ho cercato affitta camere, bed and breakfast, niente, era tutto fermo, tutto immobile in quel periodo, per cui... Quando è accaduto questo esattamente, me lo ricordo? Dunque, il 2013. Sì. 2013, pensa un po' cosa sarà adesso. Ho preso un anno sabbatico perché nel frattempo, come avevo anche la gestione di un ostello a Siena, avevo cominciato a frequentare scienze della comunicazione. Ah, voleva prendersi la laurea quindi? Sì, la seconda laurea, perché la prima me l'avevo presa in lingue, sì. La seconda... mi interessava molto, erano gli anni in cui si stava sviluppando internet, negli anni 90, perché certo. Era una cosa nuovissima, assistere a un professore che chattava con gli Stati Uniti era una cosa veramente miracolosa all'epoca. Aveva mantenuto una vivacità di interesse, che sì, non è che si era bloccato solo sul lavoro che faceva. No, tant'è vero, poi tutte queste cose che ho imparato le ho portate nelle mie strutture, il computer, le email, tutte queste cose, per cui sono stato tra i primi nella mia zona, insomma, ad usare l'email. Per cui, perché io avevo a che fare con degli stranieri che erano abituati, australiani, americani, canadesi, quindi loro ce l'avevano già, erano più avanti qualche anno di noi, per cui mi chiedevano, ce l'hai l'email che voglio mandare? E allora alla fine sono riuscito ad adeguarmi alla situazione. Lei però non parla mai del suo privato, tutto questo è stato il lavoro, è stata l'occupazione principale della sua vita finora. Ho avuto il mio privato, ho detto che sono venuto in Toscana perché mi ero innamorato della Toscana. La Toscana mica è un essere umano, è una regione. No, la Toscana con la T minuscola. Ah, la Toscana? Una signora si chiama Toscana? No, una toscana. Ah, una toscana. Ah, beh, non mi... una ragazza toscana. E non aveva afferrato la battuta, battute solo i toscani li capiscono. Una toscana con la T minuscola e sono tuttora fidanzato con lei, 40 anni di fidanzamento. Un po' lungo. Beh, però dovete conoscervi bene, fate bene. Esatto. Passi azzardati. Un chilo di sale prima, quindi... 40 anni è il tempo minimo per cominciare a conoscere una persona. Certo, adesso sono diventato un buon partito perché ora vado in pensione, quindi... Però lo è stato in questi anni un buon partito. Alla fine, se la Toscana l'è stata lì fedele, vicina, non l'ha mai mollata... Ma l'ha aiutata nel lavoro questa signora? Sì, qualche volta mi ha aiutato, poi lei studiava medicina, adesso è medico, quindi fa il suo lavoro, io faccio il mio delle erbe e quindi andiamo avanti così. Lei pensa, i colleghi avranno detto, ma che fai te nella vita? Sto con uno che ha gli alberghi, con detto uno questo. Che raccoglie le erbe. E adesso c'è uno che raccoglie le erbe, capito? Sì, però io non avrei mai immaginato che ci fosse tutto questo successo per... per questa fitolimurgia, per questa attività che oramai era scomparsa, perché poi ho incontrato una mia ex, nel senso di dipendente, ognuno fa i fatti suoi, figuriamoci. Era una mia ex dipendente che è andata a lavorare in una casa editrice e mi ha detto: cosa fai? Io raccolgo le erbe. Ah, bene, ci siamo risentiti, mi ha chiamato dopo 2 mesi e mi ha detto: te la senteresti di scrivere un libro che parla appunto in maniera, tu non sei un botanico, quindi proprio quello che vuole la mia casa editrice, un libro che parli delle erbe in maniera semplice, che tutti possono comprendere. Certo, averlo capito prima faticava molto meno, magari guadagnava anche di più. È vero. Pensi quanti hanno fatto delle fortune vendendo le erbe, le creme, le tisane. C'è un italiano che è diventato ricchissimo vendendo tisane. Alla fine tisane. Dice il tisane della nonna, che gli insegnava la nonna. Sono minestroni, su sta roba qua, alla fine. È vero. Sì, è verissimo. Io purtroppo ci sono arrivato tardi. Comunque vado avanti bene, perché questo... Il libro è anche stato una bella occasione di farsi conoscere, quindi insomma... Sì, ma lei ancora su questo deve darsi la svolta, nel senso, così sembra quasi un passatempo da pensionato e ci sta anche bene. Non gli viene in mente di diventare imprenditore anche di questa attività? No, è difficile. Oramai. Nicoletti, io ho un anno più di lei, quindi... Fra un anno mica dirò oramai, mi sparo se dico oramai fra un anno, ma scherzo. No, certo, ma voglio dire che insomma l'età c'è, mi diverto, mi piace, ma prendere degli grossi impegni come potrebbe essere... un impegno imprenditoriale, a parte che sinceramente... Più tanto alla salute ci pensa la fidanzata, che problema c'ha? Scusi. Sì. Quindi non è che deve pensare manco a quello. Sì, quello sì. C'ha il dottore in casa, che vuole di più? Il dottore in casa, per cui non ho problemi, insomma. Mangia sano, che mangia le erbette, quindi... Sì, infatti. Io mi ricordo ci si faceva la frittata con gli asparagi. Sì, la frittata è un must per chi raccoglie gli asparagi. Anche il risotto è una cosa... molto piacevole, molto buona con gli asparagi, ma ci sono tantissime altre anche di erbette che sono utili, torte salate, ravioli ripieni. Vabbè, ho capito che alla fine è arrivato all'approdo felice di una vita, nel senso che adesso in fondo cosa le manca? Mi diverto, mi fa piacere. Insomma. È che tanti anni fare l'imprenditore, uno si immagina dopo tanti anni di imprenditoria, uno dovrebbe essere avere un agio che gli dà proprio dal tanto lavoro che ha fatto. Il suo è stato un lavoro duro, quindi è sempre alla fine è un lavoro precario, perché se pensa che era legato a questi bandi, è bastato un bando non più vinto, è finito il lavoro. Sì, è vero. Infatti dovevo tenere il piede in più scarpe, questo mi creava grossi problemi, entrare in strutture nuove, rivedere il lavoro di questa struttura, impostare tutto quello che si chiama marketing, andare alle fiere all'estero, fiere turistiche, adesso sono sparite tutte, però all'epoca era però adesso che non lavora, come la riempie la giornata? No, me lo domando, che lei mi ha detto questa cosa preoccupante, un anno più di lei, e quindi cioè io fra un anno non è che voglio andare con grande rispetto. Se andassi la mattina a raccattare l'erbetta, poi il pomeriggio che faccio? La mattina si va a raccogliere l'erba. La mattina, perché sarà l'ora giusta. Tipo come la regola benedettina, ora et labora, no? Io sono un grande lettore compulsivo, leggo di tutto, di più, faccio ricerca sulle erbe anche. Quindi allarga lo spettro di queste cose. Sì, poi qualche volta mi chiama qualche agriturismo, anche slow food, ho fatto dei corsi per chi vuole conoscere questa attività, che veramente c'è un grande interesse. No, peccato che abitiamo lontani e ci passo poco per la Toscana, perché sono proprio curioso, sempre avuto questa cosa. Anche in Umbria, no? Ci vado poco, devo dire. Sì, ogni tanto ci vado, però ecco, io sono attratto dagli odori che si sentono molte volte, quell'odore di mentuccia selvatica che nessuno sa quello che è. Questa è una cosa che noi abbiamo perso, perché i nostri antenati, perché allora il lavoro di raccoglitore di erbe risale al paleolitico, neolitico convenzionalmente è nata l'agricoltura, quindi l'uomo si è fermato, ha cominciato a coltivare, ad allevare, e quindi non ha fatto più il raccoglitore, il cacciatore. Sì, proprio a disseminare mangiava quello che già c'era, già che c'era. Quindi, esatto. Certo, è chiaro. E quindi il raccoglitore doveva imparare a usare moltissimo anche uno di questi quattro sensi che l'ho fatto, perché con le erbe si usano tutte e quattro i sensi. Ovviamente la parte più importante è la vista, questo va da sé. Ma anche però il trifoglio c'ha il suo profumo, che magari lo mangiano soltanto gli animali, però c'ha il suo profumo. Certo, ogni erba c'ha il profumo, chiaro. La carota si distingue dalla cicuta per l'odore. Certo. Quindi, ma le carote una volta non erano arancioni, erano bianche. Le carote arancioni le hanno inventate gli olandesi nel 1600, per cui nei quadri olandesi dell'epoca, ecco perché io faccio anche queste ricerche, si vedono quadri di mercati dove ci sono questi enormi marchi. Sì, ma una volta l'ho visto, che ne so, le angurie erano tutto diverse, erano dentro, erano piene di semi schifose, brutte, non era come che le apri tutte rosse. C'è stata un'evoluzione dell'agricoltura che ha selezionato. Le melanzane erano orribili, erano tonde, ci sono anche quelle tonde. Le melanzane vengono poi dall'America, quindi ci sono le cosiddette piante neofite, poi ci sono le archeofite che sono quelle che esistevano prima della scoperta dell'America. Well, it's been a long time, long time now, since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta. Il treno va. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Certo, noi li riconosciamo, li identifichiamo come qualcosa tipicamente mediterraneo. Ah, mi faccio un piatto mediterraneo, peperoni, melanzane, la metà non c'era. Cioè i nostri bis quadrisavoli manco c'erano sta roba, manco le patate. Terribile. Io frequento questi ristoranti che sono quasi tutti stellati e questi ristoranti fanno molta cucina innovativa. Allora, lei deve pensare, chi per primo ha mescolato il latte con il caffè ha fatto una grande innovazione, perché il caffè veniva dall'America. È così, cioè, fatto che ha usato cappuccino. Fatto il cappuccino, è una grande invenzione, però è stata un'innovazione, prima non esisteva il cappuccino. Cioè. Così come anche la pizza col pomodoro. Il pomodoro viene dall'America, la pizza era una schiacciata. Era una focaccia, sì sì. Una focaccia, ci mettevano magari il formaggio così, però chi ha avuto questa idea? Quando Virgilio dice che Enea si mangiavano anche le menze, perché ci mangiavano sopra, c'erano ste pizze, esatto, e usavano come piatto. Usavano come piatto e poi lo buttavano sotto il tavolo e poi i poveracci andavano a raccattare. Infatti Giorgio, si mangiavano anche le menze, che è una cosa assurda, come noi ci mangiamo i piatti, assurdo, non si pensava. Era così, è vero, nel Medioevo lo facevano, mangiavano su queste focacce, poi buttavano tutto sotto e i servi raccoglievano tutto, poi cuocevano ed sono nate le zuppe, le minestre, perché erano ricche di avanzi. Ma pensa a te, la storia della zuppa è questo, veramente il rimasuglio che ci hanno già sbavato sopra i padroni. Sì, ma tutto quello che è... anche l'arte di combinare nelle misticanze, perché poi ci sono anche non solo le misticanze crude, perché io spiego appunto nel mio libro che ci sono le misticanze crude, metto le percentuali, perché non si può fare di tutta l'erba un fascio, ma è anche pericoloso, se uno non sta attento certe erbe sono anche nocive. Ma poi non si può nemmeno mettere erbe che non vanno bene insieme, è come il cocktail, non posso mettere, che so, se faccio un cocktail con il gin deve avere la parte preponderante, poi ci aggiungerò un martini, ci aggiungerò qualcos'altro, però non posso fare un cocktail dove c'è il 90% di martini e il 10% di gin, e così sono le misticanze, dove si può mescolare, ma bisogna fare attenzione a ottenere una gradevolezza di sapore, di odore anche, quindi è importante anche nelle misticanze naturalmente. Ma lei lo farà sicuramente, perché visto che ormai è un esperto e uno storico delle erbette, si è mai fatto, che ne so, una cenetta soltanto con quello che poteva esserci, che ne so, 5.000 anni fa, cose così, togliendo tutto quello che c'è di moderno? Quali sono le erbe più antiche che lei tratta? La maggior parte delle erbe che raccolgo io sono tutte erbe antiche, perché non sono le verdure che sono state importate dopo la scoperta dell'America, quindi per dire tarassaco, altre, anzi se noi andiamo a guardare l'etimologia dei nomi, che sono la classificazione binomiale di Linneo, e noi scopriamo che molti nomi li avevano dati già i latini, perché è in latino, no, questa classificazione, per cui se uno va a ricercare la storia, l'etimologia, scopre che questi nomi sono già stati usati dai latini, ecco perché i latini, infatti, per esempio, si parlava prima della carota, c'è un affresco di Pompei che rappresenta una specie di bar, e alla parete c'è un mazzo di carote bianche, come diceva lei prima, perché non esistevano ancora quelle arancioni. Ma lei si intende anche di frutta antica oltre che di erbette? Frutta arcaica non esiste? No, conosco qualche frutto tra i cosiddetti che adesso vanno un po' di moda, i frutti dimenticati, il corbezzolo, le giuggiole. Ah, il corbezzolo quanto sono belli! In Umbria li chiamano i lalleroni. Sono da vedere, sono bellissimi, da mangiare sì. Sono cattivi, perché noi li mangiavamo ma non erano un granché. Corbezzolo, come dice il nome in latino, Arbutus unedo. Unedo vuol dire in latino unum edo. E mangio uno solo, perché se ne mangi troppi poi hai dei problemi. Sono belli a vedere, perché sembrano dei fragoloni colorati. Ma sì, poi sono simbolicamente associati alla bandiera italiana, perché c'è il verde, che il corbezzolo è un sempreverde, poi c'è il frutto che è rosso e il fiore che è bianco, e questi tre colori spesso in certi periodi dell'anno ci sono tutte e tre insieme, per cui ci fanno tante cose. No, quello mi ricordo, la frutta era quegli albi con quelle pere piccole, con le meline piccole, che erano bruttissime a vedere ma erano buone. Oggi non sono quelle che si prendono al mercato, chiaramente, figuriamoci. No, certo. Poi per esempio il giuggiolo, ne parlavo prima, andare in brodo di giuggiole, certo, no? È un modo di dire. Adesso non si usa più il giuggiolo, però è buonissimo. E in campagna c'era quando ero piccolo io, sì, me lo ricordo. Sì, è un bellissimo albero, tra l'altro. Però come anche le noci non sono più quelle naturalmente che si comprano oggi al supermercato, erano altri tipi di noci. Oggi si comprano le noci che vengono dall'America, grosse. Sì, tutte perfette, erano piccole, nere, stortignacco, la metà erano marcite, però erano buonissime. Mangiarsele soprattutto quando erano ancora fresche. È vero, ti sporcavi tutto, mamma mia, un sapore. Quando le noci sono ancora acerbe, ci sono tutte queste vecchie tradizioni. Per esempio anche il prugnolo, che è una piccola prugna, no? È un pruno selvatico, no? Che è veramente aspro da morire. E in certe zone dell'Emilia ci fanno il bargnolin, che è un liquore che resiste nella tradizione emiliana, che è un liquore molto, molto buono, molto dolce anche. Ci mettono lo zucchero ovviamente. In Abruzzo c'è questa genziana che non si potrebbe cogliere, ma la colgono tutti e ci fanno un infuso che è buono, buonissimo. Però non mi sembra che sia protetta e non si possa cogliere, però la colgono tutti da quelle parti. Sì, io sono stato in Abruzzo e alla fine, quando si mangiava nel ristorante, ti chiedevano se volevi una genziana. Sì, te lo danno con un'aria come di proibito, come ti dessero cocaina, sì, perché certo si potrebbe. Una roba sotto banco. Sì, per poi voglio dire, qualcuno è arrestato per raccogliere le genziane. Però magari c'è qualche vincolo. Vabbè, è stato divertente, ma ha fatto risollevare ricordi antichi di quando ero piccolo io. Ancestrali, ricordi sì, ancestrali. Sì, sì, quando i pomodori erano un odore che ti inebriava e ti stordiva, e oggi sembrano di plastica, però sono discorsi da vecchio, non mi va più di farli. Io il pomodoro, l'ortica, per me è meglio di Chanel numero 5 come profumo. Beh, certo, è vero, sì. Però va sentito con la pianta attaccata, con quelle, sì, con quei gambi spinosi che non si possono toccare. È vero. Quello che dà l'odore più che altro, più che il pomodoro. Sì, sì, voilà, sono le foglie, sì, sì. Vabbè, buon viaggio, grazie. Grazie. A grazie presto, a tante presto. Erbe, in bocca al lupo, non so come si dice, in bocca allo scolapasta, non lo so come si dice a chi raccoglie le erbe. Si dice buona raccolta. Buona raccolta. Alla prossima, grazie alla mille. Prossima, grazie, grazie. Can't anybody see? Never find our way, regardless of what they say. How can it feel this wrong? From this moment, how can it feel? This moment, how can it feel?